la vedo certamente come una cosa positiva, anche perché mette in evidenza questo ruolo che Venezia vuole avere nei confronti di tutto il suo territorio, e cioè di essere una punta avanzata per far conoscere un territorio importante, pieno di innovazione, di operosità in tutto il mondo. Credo che questa sia una funzione che Venezia deve svolgere nei confronti di tutto il Nord-Est.